Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Emergenza coronavirus, Mattarella rivolge un ringraziamento a medici e infermieri. Al nostro sistema sanitario, dice, vada un sostegno duraturo. Nessun liberi tutti in vista, spiega intanto il commissario Arcuri, nonostante il rallentamento dell'epidemia in Italia. Da maggio prodotte anche nel nostro paese le mascherine protettive FFP per i medici. Il premier britannico Boris Johnson ancora ricoverato in terapia intensiva. Negli Stati Uniti 1.100 morti nelle ultime 24 ore, nessuna vittima invece in Cina. Borse europee positive in attesa dell'Eurogruppo di oggi. Caso Contrada, riconosciuto il risarcimento per l'ex numero 2 del SISDE per la condanna in concorso esterno in associazione mafiosa, poi revocata. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie. A metà giornata su Radio 24, emergenza coronavirus in primo piano, si conferma il rallentamento dell'epidemia in Italia, ma avete appena sentito il commissario Arcuri invita alla cautela e dice attenzione ai miraggi. E oggi, in occasione della giornata mondiale della salute, tra l'altro, il capo dello Stato Mattarella torna sul ruolo del Servizio Sanitario Nazionale, a cui, dice Mattarella, deve essere offerto tutto il sostegno necessario per il futuro. Mentre si contano oltre 6.000 contagiati proprio tra gli infermieri e 64 vittime. Sentiamo. Altri 5 medici hanno perso la vita in Italia a causa del coronavirus e il totale sale a 94. Sono invece 26 gli infermieri deceduti. A medici, infermieri e personale sanitario, scrive il presidente Mattarella in occasione della 70ª giornata mondiale della salute, va il nostro pensiero grato e riconoscente. Da 3 giorni in Italia diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva e il contagio rallenta, ma gli attualmente positivi sono ancora in aumento, 1.900 in più ieri, 93.000 in tutto, di cui oltre un terzo ricoverati. Sono morte 16.500 persone, ha ricordato poco fa il commissario Arcuri, non ce lo dimentichiamo, e altri moriranno. Non siamo, aggiunto Arcuri, a pochi passi dall'uscita dell'emergenza, non ci sarà nessun liberi tutti per ritornare alle vecchie abitudini. I controlli delle forze dell'ordine aumentano ogni giorno, ieri 271.000 persone fermate e oltre 10.000 multe comminate. Nel pomeriggio è prevista la prima riunione del Comitato Tecnico Scientifico con il Premier Conte per discutere se e come sarà possibile allentare alcune prescrizioni dopo il 13 aprile, soprattutto per le attività produttive. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E cominciamo subito ad allargare lo sguardo al resto del mondo, come sta andando l'epidemia, ne parleremo tra poco. Per prima cosa andiamo in Gran Bretagna, a Londra, per capire come ha trascorso la nottata il premier Boris Johnson, ricoverato da ieri sera in terapia intensiva. Giorgia Scaturro, ciao, buongiorno. Buongiorno Alessio. Ebbene, le condizioni del primo ministro britannico sembrano al momento stazionarie. Boris Johnson resta in terapia intensiva, dove ricordiamo è stato ammesso ieri sera per il persistere di sintomi da coronavirus da 10 giorni, a cui sono seguiti i problemi respiratori. Il ministro Gove questa mattina ha reso noto che il primo ministro ha ricevuto ossigeno, ma non è assistito da un ventilatore e ha detto di non essere al corrente di diagnosi di polmonite. Si attende però un comunicato di Downing Street non appena ci saranno aggiornamenti sulla salute di Johnson. Quindi per ora è tutto, ai prossimi collegamenti. Grazie Giorgia Scaturro. Tra poco torneremo all'estero per capire come sta andando l'epidemia negli altri paesi. Adesso invece ritorniamo in Italia, perché ieri il Consiglio dei Ministri, dopo una lunga giornata, ha comunque approvato il cosiddetto decreto liquidità. Iniziano ad emergere i dettagli di questo provvedimento su cui fanno conto le imprese in questa difficile congiuntura. Un mondo produttivo, quello italiano, che lotta nelle sue varie dimensioni per uscire dalle sabbie mobili dell'emergenza epidemica. 100.000 all'ora le richieste ricevute solo da Unicredit tra imprese e privati di moratoria sui finanziamenti per un volume di 10 miliardi di euro, con la Lombardia in testa. Facile immaginare la massa movimentata dagli altri istituti. A tutto ciò si aggiunge la seconda fase varata ieri da Palazzo Chigi sulla liquidità, un meccanismo di garanzie che libererà 400 miliardi per le imprese. È un'operazione notevole che riguarda l'intero sistema produttivo, commenta 24 Mattino il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Ovviamente a questo punto c'è un ruolo delle banche, bisogna che le banche diano una mano e siano molto, molto coerenti con quanto il decreto ha deciso. All'economia italiana occorreranno 2 anni per tornare ai livelli di PIL stimati fino a gennaio scorso, indica intanto il focus Censis Confcooperative, così il presidente Gardini. Le misure messe in campo dal governo sono importanti, ma abbiamo bisogno di snellire le procedure affinché le risorse siano riscontrabili ed esigibili immediatamente nel minor tempo possibile. Vincenzo Miglietta, Radio 24, il Sole 24 Ore. Prosegue anche il dialogo tra maggioranza e opposizione per come uscire dalla crisi. Proprio oggi il Presidente del Consiglio Conte riunisce il Comitato Tecnico per ragionare, forse per la prima volta in maniera programmatica, su come uscire appunto dalla crisi, la cosiddetta fase 2. Le misure di contenimento in vista della cosiddetta fase 2 saranno al centro della videoconferenza che il Premier Conte avrà nel pomeriggio con il Comitato Tecnico Scientifico. Nel frattempo, mentre si riaccende la polemica fra governo e Regione Lombardia sulla mancata creazione della zona rossa ad Alzano e Nembro, è anche il centrodestra a lamentare un'interlocuzione insufficiente con l'esecutivo. Sul decreto Cura Italia abbiamo lasciato solo 20 emendamenti, ma finora tutte le nostre proposte sono state respinte, dice la leader di Fratelli d'Italia Meloni, che a 24 mattino giudica comunque interessanti le misure varate ieri dal Consiglio dei Ministri. Il tema della liquidità delle imprese è sicuramente una priorità assoluta. Se devo leggere i titoli di giornali, il provvedimento lo considero interessante. Però una virgola ti cambia tutto il provvedimento, no? Quindi io devo vedere i testi. Da Forza Italia, Tajani auspica che la burocrazia e l'Europa non rallentino l'erogazione dei 400 miliardi alle imprese. Bisogna fare in fretta, altrimenti molte aziende chiuderanno, avverte l'esponente azzurro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E torniamo di nuovo ad allargare appunto lo sguardo al resto del mondo. 1.359.000 i casi censiti dalla Johns Hopkins University a livello globale. Appunto, come stanno affrontando l'epidemia in questi giorni, in queste ore, diversi paesi del mondo e soprattutto chi sta già ragionando su come ripartire? Sentiamo. Nel giorno in cui per la prima volta dal gennaio scorso in Cina non si è registrato alcun decesso a causa del coronavirus, Wuhan, la città da cui è partita la pandemia, revoca le ultime restrizioni dopo oltre 2 mesi e mezzo di lockdown. E mentre la Corea del Sud registra 6 decessi e 47 nuovi casi di contagio, il Giappone, dopo 252 nuovi casi nelle ultime 24 ore, dichiara lo stato d'emergenza per 7 delle 8 prefetture del paese, tra cui Tokyo e Osaka. Non si ferma invece purtroppo il conto dei decessi negli Stati Uniti. In un solo giorno sono morte altre 1.150 persone. Dall'inizio della pandemia in Nord America il totale delle vittime ha superato quota 10.700. In Europa invece si va verso la fase 2 con l'Austria prima nazione che comincia a riaprire. Anche in Spagna, il paese più colpito dopo l'Italia, si pensa a come ripartire. Qui le vittime del Covid-19 sono calate per il 4° giorno consecutivo. In Francia la priorità rimane il confinamento, arrivato la 4ª settimana, con la speranza che anche lì si confermino i primi segni di frenata. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prove tecniche di ripartenza in Europa. I governi stanno iniziando a esplorare possibili strategie di uscita dai loro blocchi nazionali. La prima a farlo è l'Austria, che dal 14 aprile toglierà i divieti. Le ultime cifre negli Stati membri, infatti, più colpiti, indicano un rallentamento del tasso di nuovi casi di coronavirus e decessi, come in Italia si sta riflettendo in Spagna, Francia e Germania, settimane dopo l'entrata in vigore delle misure restrittive. Apripista l'Austria, che aveva introdotto uno dei blocchi più severi nel continente. Dopo Pasqua, dal 14 aprile, appunto, riaprirà a tappe gli esercizi commerciali, con obbligo di mascherine. In un primo momento riprenderà l'attività dei negozi con meno di 400 metri quadri, i vivai e i centri fai da te. I primi di maggio dovrebbe invece riprendere l'attività di tutto il settore commerciale, anche dei parrucchieri e anche dei parchi pubblici, come annunciato dal cancelliere Sebastian Kurz, che parla di resurrezione del paese. Marcia indietro se risalgono i contagi e si potrà andare al lavoro rispettando tutte le norme rigide che per la fase 2 devono essere stabilite con precisione in tutti i paesi europei. Inoltre si lavora su test di massa e tracciabilità dei contatti e molti paesi europei guardano all'uso di dati e applicazioni mobili. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. I dati Istat sull'effetto del Covid sui consumi e sull'allentamento delle attività produttive. Secondo l'Istat, la limitazione delle attività produttive ha coinvolto circa il 34% di tutta la produzione. E se il lockdown riguarderà anche maggio e giugno, viene calcolato dall'Istat, la riduzione dei consumi sarebbe di quasi il 10%. Mentre proprio le attività commerciali cercano di immaginare in quali condizioni potranno riprendere convivendo con le restrizioni dovute all'epidemia. Riaperture graduali, gestione dei flussi all'ingresso, piattaforme di prenotazione. Il mondo del commercio, soprattutto quello dei piccoli esercizi, negozi e commerci non essenziali costretti alla chiusura durante il lockdown, si interroga sulla fase 2 in attesa delle date ufficiali per la ripresa. Accanto alle categorie merceologiche saranno le dimensioni del negozio a fare la differenza per il contingentamento degli ingressi. Il segretario generale di Confesercenti Mauro Bussoni. In questi periodi c'è stato un recupero anche dei negozi di vicinato. Tanti si sono organizzati in modo nuovo. Credo che questa cosa rimarrà. Le chiusure di marzo, calcola Confesercenti, sono costate alle imprese 18 miliardi di ricavi, 11,5 dei quali solo per turismo e commercio. L'estensione fino al 13 aprile costerà altri 5 miliardi di euro di consumi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora una buona notizia davvero che viene dall'incontro tra la medicina, la ricerca e l'impresa italiana. Potrebbe essere pronto già entro il 20 aprile, infatti, il test per gli anticorpi messo a punto dall'azienda italiana di Asorin assieme al Policlinico San Matteo di Pavia. Un test che potrebbe garantire omogeneità di risultati, ma anche una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale di questo test. Un prelievo di sangue per rilevare la presenza di anticorpi da Covid-19 e stabilire chi ha già avuto l'infezione ed è immune. A questo servirà il test sierologico messo a punto da Diasorin. Entro 2 settimane arriverà la certificazione, poi partiranno gli esami con costi sotto i 5 euro. I test disponibili ora non sono in grado di portare a una patente di immunità, ci spiega Pierangelo Clerici, presidente Associazione Microbiologi Clinici Italiani. Noi per adesso abbiamo verificato la presenza sul mercato di 120 prodotti, quasi tutti di provenienza cinese, per la ricerca di anticorpi, sia IgG che IgM, ma con poche indicazioni di che tipologia di antigene vengono utilizzati. Le aziende offrono kit diversi a costi differenti e molte regioni come Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Puglia hanno già iniziato le sperimentazioni. In pochi giorni si avrà la validazione dei test che dovranno avere valenza nazionale. Le parole del Consiglio Superiore di Sanità. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora due notizie di cronaca. La prima arriva dall'Australia, riguarda la soluzione del cardinale australiano George Pell dalle accuse di pedofilia. Dopo la conferma della condanna, anche in corte d'appello, è arrivata invece per il cardinale australiano Pell il proscioglimento da ogni accusa di pedofilia da parte dell'organo di giustizia finale dell'Australia. Quindi il cardinale è libero. Un'altra storia di giustizia riguarda l'Italia. La corte d'appello di Palermo ha infatti accolto la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione presentata da Bruno Contrada, ex numero 2 del SISD. Sentiamo perché. Arriva anche il risarcimento nell'ennesimo capitolo della saga giudiziaria di Bruno Contrada. 24 anni dopo la prima condanna arrivano 667.000 euro per l'ex funzionario del SISDE, oggi 88enne, tra i protagonisti di una drammatica e opaca stagione di contrasto a Cosa Nostra, in parte ancora sotto processo in quella che poi sarebbe stata definita la trattativa Stato-mafia. Questi soldi sono la riparazione per il carcere che non avrebbe dovuto subire, come certificò la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e poi la Cassazione. La vicenda giudiziaria dell'ex super poliziotto fu capovolta dopo la condanna definitiva a 10 anni, perché i fatti che gli si contestavano di essere stato, cioè vicino ad ambienti mafiosi tra gli anni 70 e il 92 delle stragi, risalgono ad un periodo in cui non esisteva ancora il reato di concorso esterno in associazione mafiosa introdotto nel 94. Non era quindi chiaro cosa sarebbe stato punibile. Da qui il ribaltamento di una vicenda giudiziaria non ancora chiusa e di una stagione per certi versi ancora da chiarire. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:14 minuti, facciamo una pausa. Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo da una lettera dei medici della Lombardia ai vertici delle istituzioni, a cominciare proprio dalla regione, dove si elencano tutti gli gli errori commessi in questa prima fase di gestione dell'epidemia da coronavirus e si fanno anche delle proposte per non ripetere questi sbagli. 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. A tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi, nessuno è liberi, tutti in vista. Il commissario Arcuri frena dopo il rallentamento dell'epidemia in Italia, dice attenzione ai miraggi. Mattarella rivolge un ringraziamento a medici e infermieri, al nostro sistema sanitario, dice il capo dello Stato, vada un sostegno duraturo. E intanto i presidenti degli ordini dei medici della Lombardia scrivono alla regione: troppi errori, dalle case di cura ai pazienti lasciati soli sul territorio. A Effetto Giorno il presidente della federazione Gianluigi Spata. Il premier britannico Boris Johnson è ancora ricoverato in terapia intensiva, condizioni stabili. Borse europee positive intanto in attesa dell'Eurogruppo di oggi. Caso Contrada, riconosciuto il riconoscimento per l'ex numero 2 del SISDE per la condanna in concorso esterno in associazione mafiosa, poi revocata. Le 13:18, buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori in diretta con Effetto Giorno. È con noi, come anticipato, Gianluigi Spata, presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici della Lombardia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Autore e cofirmatario di una lettera dei presidenti degli ordini dei medici di tutta la regione, inviata ai vertici delle istituzioni, Regione Lombardia in testa, in cui si ripercorre con spirito critico, ma anche con spirito costruttivo, vedremo, questa prima fase di gestione dell'epidemia di coronavirus, ricordando anche tutta una serie di errori, voi dite proprio, che sono stati commessi, errori di valutazioni, forse cose che potevano essere evitate, alcune altre che magari non era possibile evitare, perché ricordiamo che il Covid è una malattia nuova. Però voi parlate della gestione delle case di cura, parlate del sacrificio dei medici, della mancanza di dispositivi di protezione per i medici. Poi dite non è il momento delle analisi delle responsabilità, ma partire da questi errori vuol dire affrontare da adesso in poi in modo diverso, migliore se possibile, questa crisi. Professor Spata, intanto sì. Una delle prime questioni che dite è quella dei tamponi fatti solo in ospedale anziché fatti ai pazienti anche non in ospedale o al personale sanitario. Sì, infatti questa è una delle criticità, no? Perché ovviamente i pazienti fatti in ospedale, ovviamente fatti in ospedale, sono sottoposti a tampone nasofaringeo, come è giusto che sia. Il problema era che tutti quei pazienti, che sono tanti, che sono rimasti al proprio domicilio perché non necessitavano ovviamente di un ricovero, ma comunque anche magari con patologie anche legate alle vie respiratorie, o comunque poi non sono stati sottoposti in gran parte ai tamponi, per cui da tutti quei dati, no, che sono diffusi su quante infezioni effettivamente ci sono state nel nostro territorio, è un dato un po' sottostimato. Manca tutta quella parte lì, manca tutta questa parte qui, ma la cosa diciamo che abbiamo dovuto sottolineare è che questi pazienti sempre a domicilio, sì, una volta che sono guariti, cosa succede? Devono stare in quarantena, che ricordiamo la quarantena sono 14 giorni, che per noi è un numero abbastanza stretto e poi su letteratura non c'è ancora chiarezza, e vengono, una volta passata la quarantena, ritornano sul territorio senza aver fatto il tampone. Quindi, e questo è altrettanto grave, certo, per il prosieguo dell'epidemia. Diciamo, certo, anche una cosa, professor Spata, che altrove, perché uno potrebbe dire ma questa cosa è stata fatta ovunque, erano le linee guida, Fontana spesso ha detto questo, però certo, invece per esempio in Veneto, all'ospedale San Matteo di Pavia, è stato fatto il tampone a chiunque andava, fuori dall'ospedale, se ho capito bene, nelle tende triage fuori dall'ospedale, chiunque riceveva un tampone e forse anche poi l'embrione di una terapia iniziale, anche se non era così grave da poter entrare nell'ospedale. Questo, a questo tipo di esempio voi fate riferimento, o sbaglio? Sì, infatti soprattutto a questo indubbiamente. Ecco, l'importante è che bisogna garantire al paziente che ritorna sul territorio la negatività del tampone, ma questo non solo per lui, ma soprattutto per la comunità, il resto della popolazione. Certo, perché altrimenti diventano vettori, come del resto siamo stati vittime e vettori anche noi medici, i medici del territorio. Ecco, cioè, che cosa ha comportato, professor Spata, non fare il tampone al personale sanitario? Cosa che anche qui ha differenziato, almeno in parte, la Lombardia, per esempio, dal Veneto, dove per esempio invece il dottor Crisanti ha fatto, almeno nell'esperienza iniziale di Vuoi Euganeo, ma credo anche altrove, ha proprio fatto questo, cioè il tampone anche ai medici. Perché era importante farlo? E certo, questo era molto importante, ma per il discorso che le dicevo prima, al di là della sicurezza per i medici, perché ovviamente se ci ammaliamo tutti noi medici, poi voglio vedere poi chi cura i pazienti, ma comunque questa è una battuta, però ma al di là di questo, perché poi noi medici possiamo tranquillamente essere dei vettori di infezione. Basta pensare, ripeto, sul territorio. Perché diciamo che il territorio non è stato sufficientemente tutelato? Cioè, nel senso che a noi, medici di medicina generale, sono evidentemente arrivati molto poco, cioè i dispositivi di protezione, ma mi riferisco a qualche mascherina. Cioè, quando invece per andare a vedere un paziente a domicilio che dopo un triage telefonico si è fortemente sospetto per un Covid-19, ovviamente bisogna andare però attrezzati con il camice, con la mascherina, con i guanti e via dicendo. Altrimenti che ci è stata impedita. Le voglio ricordare una frase che ha detto proprio a questi microfoni il suo collega Marinoni di Bergamo, che è uno dei firmatari di questo appello. Ci hanno chiesto di fare la guerra con i fucili di carta pesta. Questo proprio per quanto riguarda i medici di base. Io dico che siamo andati a mani nude. A mani nude, perché noi inizialmente abbiamo tutti concentrato la nostra attenzione verso il tema degli ospedali, dove c'era la crisi acuta con le persone ricoverate in terapia intensiva, ma sul territorio, ed è questo un altro dei punti chiave della vostra lettera, non c'è stata da parte del sistema sanitario della regione Lombardia in particolare quasi alcuna presa in carico di questa situazione, cosa che ci stava già raccontando. Perché la regione Lombardia si è mosso molto bene a livello ospedaliero, infatti ha garantito, cioè si è molto concentrata sull'attività intensiva, quindi sulle rianimazioni, sulle terapie intensive, perché così. Il grosso errore è stato proprio quello di aver abbandonato il territorio, cioè noi siamo stati veramente lasciati a mani nude, ma tuttora non abbiamo i dispositivi, cioè ancora di protezione individuale. Senta, sono diciamo un po' le criticità principali, ma la stessa cosa è avvenuta per anche la continuità assistenziale e anche per le RSA. Ecco, anche a proposito delle RSA, mi faccia fare solo un inciso, Spata, la interrompo. Prego. Per questo, per fare un chiarimento, credo a beneficio degli ascoltatori, perché naturalmente molti staranno anche pensando che alcune di queste cose che avete sentito dal professor Spata, dai cofirmatari di questa lettera, tipo la questione delle mascherine, per esempio, non c'erano mascherine, quindi sarebbe stato davvero difficile fare altrimenti. Certo, voi suggerite da adesso in poi soprattutto di cambiare rotta e forse qualcosa si sarebbe potuto fare di diverso, ma c'è un tema, quello delle RSA, delle case di cura, su cui voi dite che lì sono proprio stati commessi dei veri e propri errori, come per esempio chiedere di ospitare pazienti Covid all'interno delle RSA. È una richiesta che è arrivata dalla regione, che voi dite sbagliata. Perché? Sì, è sbagliata, perché ovviamente per ospitare un Covid, cioè, richiede che cosa? Del personale innanzitutto esperto, del personale che è attrezzato, come dicevo prima, per poter far fronte e soprattutto va isolata, cioè una parte, cioè ovviamente dell'RSA, di qualunque struttura, del resto quello che hanno fatto negli ospedali, per poter fare in modo che il Covid non si diffonda. Ecco, queste sono le cose principali, ma soprattutto quello appunto di non avere attrezzato sufficientemente nella maniera adeguata anche le strutture RSA, soprattutto il personale medico, infermieristico, tutto il personale sanitario. Senta, voi dite che anche in questa lettera che lo sforzo che si è fatto, le energie che si sono concentrate sulla ospedalizzazione della crisi e la gestione delle terapie intensive, che era doveroso farlo, intendiamoci, non è che è stato sbagliato, ma è stato doveroso grazie anche all'impegno dei medici, però come dire, ha, e questo ce l'ha spiegato bene fino adesso, fatto trascurare tutto il resto, perché voi dite l'epidemia è un fatto che riguarda tutta la popolazione, non solo gli ospedali, però dite anche che questa situazione è un po' il frutto di scelte sbagliate fatte in passato per quanto riguarda la sanità della Regione Lombardia, che normalmente viene presa a modello per la sua efficienza da tanti punti di vista, da tanti parametri, però che cosa c'è che è stato fatto di sbagliato e che adesso, come dire, in qualche modo ne stiamo pagando il conto? Beh no, è sempre c'è quello il discorso di praticamente lei sa benissimo che la riforma sanitaria si è centrato molto sull'ospedale per acuti, no? Cioè, e si doveva ovviamente per lasciare la terapia, la cura della cronicità ovviamente sul territorio. Ecco, sono stati fatti delle sperimentazioni, per carità, cioè con la cura della cronicità che sta dando anche dei discreti risultati, però bisognava in questo caso qui, cioè proprio siamo stati lasciati proprio soli, ecco, cioè non c'è stata la prontezza di capire che cosa. Di capire una cosa molto importante: noi, il medico di famiglia, è il primo interlocutore che ha il paziente. Non c'è niente da fare, perché è così. E allora a questo punto, se fossimo veramente stati dotati in questa emergenza epidemica di tutto il necessario per poter seguire i nostri pazienti, io credo che tanti pazienti sarebbero potuti rimanere a casa, chiaramente non quelli gravi che sì, desaturavano, via dicendo, avremmo potuto per alcuni pazienti magari capire magari in anticipo magari alcuni sintomi che potevano poi indurci al ricovero, magari ci sarebbe stato qualche meno ricovero e probabilmente anche qualche vittima, qualche decesso e anche qualche decesso meno. Questo lo aggiungo io perché abbiamo tutti presente le cifre che i sindaci della provincia di Bergamo e di altre regioni della Lombardia stanno fornendo: il numero di decessi quest'anno molto superiore, 3, 4, 5 volte superiore agli anni scorsi, alla media degli anni scorsi, lo ha confermato anche l'Istat, quando le morti certificate per Covid sono molte meno. Io la ringrazio, professor Spata, grazie per essere stato con noi con questa lettera appello di tutti i presidenti degli ordini medici della Lombardia. E avete sentito anche dal tono di questa intervista che le critiche che vengono mosse sono critiche costruttive. Non c'è un assalto alle responsabilità di nessuno, ma c'è un dire attenzione, perché se sono stati commessi degli errori fatali perché non era possibile fare diversamente, o anche errori di valutazione, a maggior ragione è possibile intervenire adesso. Da adesso in poi cerchiamo di fare tesoro di tutto questo. A proposito della gestione delle RSA, cioè delle residenze assistite per gli anziani, c'è una inchiesta aperta dalla Procura di Milano, ce ne parla Daniele Biacchessi. Modello 44, indagine conto ignoti. Partono da qui dati dovuti e previsti dalla legge le prime inchieste della magistratura, in particolare della Procura di Milano, sui casi di contagi da coronavirus nelle residenze sanitarie e assistenziali milanesi, dove troppi anziani sono morti e molti operatori si sono ammalati in poche settimane. Le ipotesi di reato, se provate, sono gravissime: diffusione colposa di epidemia, mancata applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Se provate, appunto, perché provare in un'aula di tribunale il nesso di causalità tra una morte e un contagio sottovalutato, peggio ancora diffuso in modo colposo, è cosa difficile e ardua. In queste ore i magistrati sono sommersi da denunce ed esposti come quello nato dai rilievi dei lavoratori del Pio Albergo Tribuzio, dove a marzo sono morti 70 anziani. Altre indagini dei PM del Dipartimento guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano sono in corso all'Istituto Dognocchi di Milano su una casa casa famiglia di Afori, su un'altra del quartiere Corvetto, e altre ancora si stanno aprendo o si apriranno ovunque, in Lombardia e in tutta Italia. L'azione della magistratura farà il suo corso, ma al netto dei tempi della giustizia gli amministratori della cosa pubblica dovrebbero dare, prima possibile, risposte immediate, convincenti, chiare e trasparenti, per il bene comune. 13 e 31 minuti, una breve pausa, torniamo tra poco con Effetto Giorno e tutte le altre notizie tra poco. Effetto Giorno. Ecco le notizie di oggi. Emergenza coronavirus. Mattarella rivolge un ringraziamento a medici e infermieri. Al nostro sistema sanitario dice vada un sostegno duraturo. Nessun liberi tutti in vista, spiega intanto il commissario Arcuri, nonostante il rallentamento dell'epidemia in Italia. Il premier britannico Johnson ancora ricoverato in terapia intensiva, condizioni stabili per lui, borse europee positive intanto in attesa dell'Eurogruppo di oggi. Istat per l'economia italiana, si tratta di uno shock senza precedenti, un calo con il blocco delle attività fino a maggio, un calo dei consumi fino al 10%. Caso Contrada, l'ex numero 2 del SISDE ottiene il risarcimento per la condanna in concorso esterno in associazione mafiosa, poi revocata. Caos rifiuti con le aziende del riciclo chiuse per l'emergenza coronavirus, non sappiamo più dove mettere i materiali. A Effetto Giorno parla l'assessore all'ambiente della regione Piemonte. Eccoci qua, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666, divisi un po' su, dopo l'intervista al professor Spata, il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici della Lombardia, che ha scritto ai vertici delle istituzioni, regione inclusa, per dire che cosa è stato fatto di male, che cosa è stato sbagliato. Muove delle critiche, ma muove anche delle proposte, messaggi divisi, perché c'è chi dice errori madornali sulle RSA, meno male che si cominciano a individuare le responsabilità, una cosa terribile, dice Liliana. Altri ascoltatori dicono invece chi se ne importa delle polemiche, bisogna andare uniti e lottare come in una guerra contro il Covid. Non sono polemiche però queste, sono critiche su cose che possono essere state sbagliate, ripeto, magari fatalità. Il Covid è una malattia nuova, nessuno dice, non lo diceva il professor Spata, personalmente non lo sosterrei nemmeno io, che si poteva prima sapere come fare, però forse anche ci sono state delle sottovalutazioni, delle valutazioni errate, come per esempio per quanto riguarda le case di cura, tra l'altro c'è anche un'inchiesta aperta. Poi un'ascoltatrice che dice io mi tengo ben stretta alla sanità lombarda, assolutamente nessuno nega questo, e devo dire che vedendo la puntata dell'altra sera di Report sul come il Mezzogiorno si sta preparando ad affrontare l'emergenza coronavirus, per quanto i casi sono ancora molto limitati, c'è da dare ragione, perché il livello di impreparazione è enorme. Però non c'è nessun mantra, non c'è nessuna religione, io dico a questa ascoltatrice, se anche in Lombardia sono stati fatti degli errori, impariamo, facciamo tesoro, facciamo sistema. È come per la questione delle mascherine, non si producono più in Italia, no? Di chi è la colpa? Di nessuno, di tutti. Le imprese hanno smesso di produrle perché c'erano margini bassi, il sistema sanitario ha smesso di comprare quelle italiane perché costavano troppo. Ecco un errore di sistema, ed è un errore di nessuno, credo, ma di tutti forse. È il momento del punto, il vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. Oggi l'Europa è chiamata a dare un segnale forte, un segnale politico che dia corpo e orizzonte a un'idea di Unione Europea che abbia ancora una volontà di essere tale. Al di là delle retoriche e degli allarmismi, non ha in gioco solo un bazooka economico per salvare l'Europa da una terribile depressione. La BCE ha già messo in campo un'azione praticamente illimitata, in grado di consentire agli Stati dell'Eurozona di gestire la glaciazione in atto dell'economia. Poi i singoli Stati, come ha fatto ieri l'Italia, hanno allestito giganteschi scudi con le garanzie pubbliche per i prestiti alle imprese. Ma ciò che manca è l'indicazione di un salto di qualità dell'Europa politica, che dalle tragedie della guerra è nata e dalle difficoltà trova in genere il senso profondo della convergenza tra Stati con storie e retroterra culturali tanto diversi, ma mai troppo diversi. L'Unione Europea, guidata da Ursula von der Leyen, ha già fatto molto. addio ai tetti del patto di stabilità, addio ai vincoli sugli aiuti di Stato, un inedito meccanismo di finanziamento per l'indennità di disoccupazione. Ora deve dare un segnale sulla volontà di creare uno strumento finanziario per assistere gli Stati. Forse saranno più d'uno, il MES depotenziato, la BEI con il suo potenziale di investimenti, un nuovo fondo diretto dell'Unione ricavato dalla revisione del budget europeo. C'è spazio per arrivare a un compromesso, di quelli che funzionano, di quelli dove non vince nessuno, ma dove vince l'Europa. Eccoci qua di nuovo in diretta. Allora, tra le tante notizie che ci sono in questi giorni, tra i tanti effetti, tra le tante conseguenze dell'epidemia di coronavirus, c'è anche un problema che riguarda il settore dei rifiuti. Ne parliamo con l'assessore all'ambiente e all'energia della Regione Piemonte, Matteo Marnati. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Benvenuto Marnati. Allora, ci spieghi qual è l'imbuto, perché abbiamo capito che siete in difficoltà con lo smaltimento di materiali come carta, legno, plastica. Che cosa sta accadendo? Ma credo che sia un problema abbastanza, se non nazionale, europeo, nel senso che noi abbiamo puntato molto come Regione Piemonte alla raccolta differenziata, abbiamo investito anche tante risorse pubbliche per potenziare la macchina generale e quindi in questo momento purtroppo con la crisi derivante dall'emergenza Covid-19 molte aziende sono chiuse e anche l'export è praticamente annullato e quindi tutte le imprese, le fabbriche che utilizzavano i materiali di riciclo, quindi la plastica, sì, la carta, il legno, ma tutto quello che può essere riciclato in questo momento non stanno adesso lavorando, non lo fanno più. O comunque hanno dimezzato un po' la produzione, questo è normale, insomma succede ormai in quasi tutte le industrie ormai italiane per via di questa emergenza, quindi solamente solo quelle sanitarie stanno andando avanti. Certo, assessore Marnati, soluzioni per l'immediato, ma mi viene da pensare anche per il futuro, perché questo dei rifiuti, dei materiali da riciclo è un problema che arriva adesso per questa emergenza, per questo blocco delle attività economiche di alcune, però è un problema che ci trasciniamo da un po'. Sì, comunque lo trasciniamo da un po', soprattutto ad esempio sulla plastica. La plastica è un materiale che quello che è ad esempio quello delle bottigliette che beviamo, il PET, è considerato di altissima qualità e quello non ha problemi. Tutto il resto delle altre plastiche sono di bassa qualità o comunque tipo le pellicole o materiale un po' più o meno pregiato, ovviamente quello lì non ha oggi una seconda vita. Se non una piccola parte, quindi tutto quel materiale lì ahimè oggi o viene portato in discarica o viene portato in un termolizzatore per fare quindi calore ed energia. Però giustamente stiamo affrontando l'emergenza che è quello di permettere oggi di stoccare un po' di queste risorse, quindi la plastica, la carta la teniamo qui per qualche mese sperando che parta subito ovviamente la filiera. Se dovesse accadere questo, le strade sono due, quindi di aumentare un po' il volume delle discariche e questo mi dispiace perché come negli anni 80, torniamo indietro di 30 anni, nel senso che una volta non si faceva la raccolta differenziata e quindi si portava tutto in discarica, o altrimenti vanno portati in qualche termovalorizzatore. In Piemonte ne abbiamo solo uno, è quello di Torino, e quello di Torino è al massimo, quindi non può più accettare rifiuti. Se no in soccorso potrebbero arrivare quelli della Lombardia. In realtà oggi stiamo già portando alcune tonnellate, però in questo caso è necessario portarne molti di più e la fase invece della visione del futuro è quello di costruire impianti in modo tale che il Piemonte sia, ma dovrebbero essere così un po' tutte le regioni secondo me, molto più autonomo. Quindi sul plast mix, che è quel materiale che oggi non viene utilizzato, lo scarto dello scarto, in realtà oggi ci sono studi, infatti io ho dato diciamo il via alle aziende del territorio di darmi delle soluzioni per utilizzare questi materiali localmente. E in effetti poi scava, vengono fuori delle idee importanti. Per esempio, io so che si sta studiando anche su per usarlo come carburante, come per produrre del carburante, del bio, forse etanolo, se non ricordo esattamente, o che altro? Ma in realtà c'è un grosso player del Piemonte, che è uno dei più grossi italiani, che vorrebbe produrre praticamente una miscela da mettere nel bitume dell'asfalto, sì, che lo rende molto più performante, sì, Poi potrebbe essere utilizzato anche per fare tipo i contenitori dei rifiuti, sì. O può essere utilizzato anche per fare delle pavimentazioni, magari che ne so, sui luoghi vicino al mare o al lago, in modo tale che è molto più resistente e quindi non si consuma. Però insomma, questo purtroppo... il messaggio è sviluppare sempre di più la filiera dei rifiuti, considerandoli materiali e però avendo anche delle aziende che siano in grado di utilizzarli, no? E di assorbirli. Perché altrimenti non ne usciamo, mi sembra questo per il futuro, l'indicazione. Grazie intanto all'assessore all'ambiente della regione Piemonte, Marnati, grazie, buona giornata. E allora, è il momento dell'anticipazione del programma sportivo. Carlo, ciao Carlo. Ciao Gente. Alessio, ciao. Buongiorno a tutti. So che oggi avete un asso nella manica. Oggi un grande convocato dagli Stati Uniti, da New York, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che ha accettato la nostra convocazione. Lo faremo svegliare presto e insomma gli chiederemo, abbiamo diverse cose da chiedergli in realtà, a partire da una suo sguardo alla situazione americana per quanto ovviamente riguarda l'emergenza coronavirus, ma poi ovviamente tanti argomenti sportivi e calcistici, si riprende oppure no. Ieri c'è stato un sostanziale accordo all'interno della Lega tra i presidenti della Serie A, sì, sulla questione della riduzione degli stipendi, però l'Associazione Italiana Calciatori ha subito detto non se ne parla neanche di decurtarci lo stipendio di un terzo nel caso in cui non si ricomincia a giocare, di un sesto nel caso in cui il campionato riprende. Ecco, ma come giudichi, te lo chiedo, visto poi ne avete parlato anche ieri all'interno di tutti i convocati, ma così una primizia per il pubblico di Effetto Giorno in questo orario, di questa diatriba, no? Tra i calciatori e le società, perché i calciatori dicono che stavano già raggiungendo un accordo e che questo, diciamo, è una forzatura. Cosa ne pensi tu? Ma che insomma questa linea guida verrà declinata in maniera diversa all'interno dei vari club, quindi questa è una direttiva grosso modo formale, però i club stanno già lavorando al loro interno per raggiungere un accordo con i loro giocatori, quindi non voglio dirti che si tratta di una così presa di posizione un po' demagogica, ma poco ci manca, perché poi bisognerà fare i conti con i giocatori, con i loro manager, e quindi si va verso soluzioni molto più individuali per i singoli club, Alessio. Va bene, grazie Carlo, ti ritroviamo dopo il GR delle 14 naturalmente. Adesso è il momento del traffico, torniamo tra poco insieme a Giulia Crivelli, allarghiamo lo sguardo ai giornali internazionali.